CETA è praticamente un accordo commerciale per commercio e investimenti fra Canada e Unione Europea. E ieri in Senato, in commissione al Senato, è stata bocciata la sospensiva, cioè vanno avanti ancora le trattative, giusto? Sì, è stato fatto in pratica un passaggio successivo per la ratifica da parte italiana di questo accordo, che comunque è darsi veramente una zappata sui piedi dal punto di vista degli standard di tutela delle persone e della difesa del nostro agroalimentare. In particolare, quali sono i punti più critici? Quali sono gli effetti che questo accordo può portare in Italia? Ma innanzitutto c'è un grosso problema legato alla tutela degli investimenti. Con questo accordo si verrebbe istituito una sorta di sistema parallelo di giustizia, delle specie di corti speciali dove l'investitore straniero può addirittura citare in giudizio un paese membro nel caso una determinata normativa fatta per tutelare persone e ambiente in questo paese dall'azienda privata venga vista come un impedimento a far fruttare i propri investimenti e dà molto più potere all'investitore privato rispetto al paese membro. Questo per fare un esempio, ma poi tutto il pacchetto agroalimentare è quello che senz'altro per quanto riguarda l'Italia è più rischioso, perché non dimentichiamoci che comunque nel Canada la fanno da signori gli OGM, c'è un tipo di produzione molto più industrializzata del mondo agricolo, quindi produzione di carne, allevamenti che utilizzano ormoni, lavaggio col cloro, è comunque un sistema più industrializzato in generale. Non dimentichiamoci ad esempio che le coltivazioni di frumento in Canada vengono ancora sottoposte all'uso di glifosato come disseccante, quindi viene utilizzato appena prima del raccolto per seccare prima la pianta, in quanto il clima in Canada ovviamente non è così gentile come da noi, e quindi anche un utilizzo di sostanze chimiche, pensiamo ai pesticidi, dove ci sono circa un centinaio di sostanze che in Canada sono ancora autorizzate, si possono ancora utilizzare, mentre nell'Unione Europea sono già vietate da anni. Quindi ci sono tutta una serie di problematiche che tendono in prospettiva da far abbassare gli standard di tutela europei rispetto a quelli canadesi. Questo appunto anche problemi per potenziali problemi per la salute per appunto i consumatori italiani, quanto alle aziende agricole italiane, insomma abbiamo piccoli e medi produttori, si parla tanto di Made in Italy, ma questo in qualche modo verrebbe penalizzato? Sì, assolutamente, qui rischiamo veramente di mettere in ginocchio i nostri produttori, perché come giustamente dicevate, da noi la dimensione media di un'azienda agricola di 7-8 ettari che dovrebbe mettersi a fare concorrenza, che invece con grosse aziende che veramente vanno a centinaia se non migliaia di ettari di estensione, quindi molto più legati a monocultura, un modello industriale che può fornire al mercato europeo alimenti sia di bassa qualità ma anche di prezzo teoricamente leggermente inferiore, quindi questo andrebbe a mettere in croce il nostro agroalimentare e trasformare dal mio punto di vista il Made in Italy in una scritta che diventerebbe poi di poco significato. E non dimentichiamo poi anche tutto il sistema di produzione di quelle che sono le nostre identità, i prodotti geografici tipici, le DOP, le IGP, questo genere di prodotti. Siamo in Italia, abbiamo circa 290 prodotti riconosciuti. Con questo accordo in Canada ce ne riconoscerebbero solamente 41, ma neanche come produzione totale, cioè come protezione completa, perché se da un lato sì, mi viene riconosciuto, per fare un esempio, il parmigiano reggiano, nulla vieta però ai produttori canadesi che hanno già in commercio sul mercato prodotti che vanno un po' a copiare questa sigla, pensiamo al classico parmesan per avere chiaro un esempio, potrebbero continuare a venderlo, quindi stiamo parlando di una protezione un po' farlocca. Quello che è chiaro è che nessun altro prodotto DOP italiano potrebbe, o europeo, potrebbe essere poi aggiunto a questa lista di quelli già esistenti. È possibile un ragionamento e una riflessione su eventuali nuove DOP che dovessero originarsi, dovessero venire riconosciuti da qua al futuro, ma nessuno di quelli già esistenti. Come ce l'hai descritto, lo schema del CETA è analogo a quello del TTIP. Al momento dell'insediamento di Donald Trump sembrava che si potesse bloccare anche questo analogo accordo con gli Stati Uniti. Da questo punto di vista, che punto siamo? Al momento è ancora congelato il TTIP, però secondo me è importante anche tenere presente un punto. Oltre 41.000 aziende statunitensi hanno sussidiari in Canada, quindi approvando il CETA, quindi l'accordo con il Canada, indirettamente stiamo aprendo le porte mascherate a un TTIP.